La rosa purpurea di Franco D'Assisti. E come sempre il sabato inesorabile nel pomeriggio di Radio 24 arriva La Rosa Purpurea, il nostro magazine di consigli cinematografici per il weekend in sala e non solo. Un saluto da Franco D'Assisti, settimana molto densa numericamente, sono quasi una dozzina i film nuovi che arrivano nei cinema italiani. Come sempre noi facciamo delle scelte e cominciamo subito a buttarci in quello che è il nostro consiglio della settimana con un film che mette insieme un cast di altissimo livello attoriale, almeno per quanto riguarda i nomi da locandina, Robert De Niro, Diane Keaton, Amanda Seyfried, Robin Williams, per The Big Wedding. Allora, ascoltiamo la clip e poi ne parliamo. So che i tuoi genitori adottivi, Don e Ellie, non sono cattolici. Sua madre biologica è decisamente cattolica e abbiamo saputo che verrà al matrimonio. Esatto. Oddio. Sai che cosa mi ha chiesto tuo figlio? Eh? Madonna ha questa specie di ridicola concezione secondo cui il divorzio è un enorme delitto. E ora ha lasciato la Colombia, che aveva giurato di non lasciare mai su un aereo, cosa che la terrorizza. No, per scoprire che le ho mentito e che ho vissuto tra gli infedeli negli ultimi 15 anni. Senza offesa. Figurati. Allora fingete di essere sposati per il weekend, qual è il problema? Commedia dei sentimenti con, abbiamo detto, grossi nomi, pubblico che sembra apprezzare molto fino a questo momento, magari la critica un po' meno. Sentiamo da che parte sta il nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris. Un po' mi dispiace, ma sto dalla parte della critica e non di quella del pubblico, perché francamente mi sembra veramente un film che prende scorciatoie facilissime. E quando le prende assomigliano alle strade o ai sentieri che hanno percorso altri film. Questo Big Wedding è il remake di Mio fratello si sposa, un film francese che aveva una grazia completamente diversa e nomi anche totalmente diversi. Qui si punta tutto sullo star e a volte ti sembra di essere ripiombato in Mamma Mia, ma senza gli ABBA e senza Meryl Streep. Vero è che c'è Susan Sarandon, vero è che ci stanno Diane Keaton, ma tutti nei loro personaggi che si sono accomodati negli ultimi 10-15 anni, addirittura sembrano vestiti come in tanti altri film, e lo stesso vale per De Niro e per tutti gli altri personaggi che sembrano presi di peso dalle commedie, in particolare sentimentali, che avevano fatto in passato e restituiti ai loro stereotipi, che comunque tutto questo successo neanche avevano avuto nella maggior parte dei casi. Quindi francamente si ride stancamente a volte, ma nella maggior parte del tempo ci si annoia. E allora, questo per quanto concerne The Big Wedding, che rimane chiaramente come titolo uno dei film importanti, da cui ci si aspetta molto in termini di distribuzione di questa settimana, tra l'altro tempo che in Italia non sta proprio regalando momenti indimenticabili, e quindi probabilmente cinema nei quali continua ad andare molto bene Maleficent, per dire, cioè un film di 4 settimane fa, cinema che potrebbero riprendere quota con la loro produzione. Andiamo a giocare insieme invece, come sempre, la tradizione della Rosa Purpurea, bellissimi film in DVD, in Blu-ray per voi, ma prima dovete indovinarli, sentiamo. Sto meglio, così ci tenevo a ringraziarti. Tesoro, se non hai soldi o clienti per me, ho molto da fare. Ce l'hai per altri 20 di noi? E allora, di che film si tratta? Avete capito già di quale film stiamo parlando? Scrivetecelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Provate a vincere una delle due copie a disposizione di questo film, del quale fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. E allora andiamo avanti con le proposte al cinema, lo facciamo con un film che sicuramente ha un registro e un target completamente diverso rispetto a quello di cui abbiamo parlato in apertura. Stiamo parlando di La gelosia, un nome importante del cinema francese contemporaneo, quello di Philippe Garrel, dietro la macchina da presa e anche in sceneggiatura con 4-5 nomi, insomma, film scritto a più mani, fra gli attori Louis Garrel, quindi rimaniamo, come dire, in famiglia. Un film presentato alla 70ª Mostra del Cinema di Venezia. Ascoltiamo la clip. Qui è dove mi hai baciata la prima volta. Ah sì? È stato forte. È da molto tempo ormai che so chi sono. È la mia fortuna e allo stesso tempo la mia condanna. Ed è per questo che so che ti amo. Ti amo per quello che sei, per quello che pensi. Ti amo ed è definitivo. Tua fidanzata. Shh. È lei. Sta buona. Se un giorno ci tradissimo, pensi che ce lo dovremmo dire? Sei davvero complicato. Perché tu non vorresti saperlo? Ti sto chiedendo di amarmi e di credere in noi. Solo così saremo felici. Boris, è la svolta sentimentale anche per Louis Garrel? Ma forse la svolta sentimentale per Louis Garrel, di sicuro questo film La gelosia, però è un altro stereotipo sullo stereotipo, e non lo dico solo in senso negativo. Dovete decidere se andarlo a vedere o meno rispetto alle reazioni che avete quando il vostro amico cinefilo dice: ah, il cinema d'autore francese, e poi sospira felice, e voi siete contenti per lui, oppure invece imprecate dicendo: mamma mia, ancora un altro film francese di questo tipo. Perché il problema è che se è vero che Garrel ha una svolta sentimentale, il percorso che fa questo film è quello del suo padre regista solito, molto cervellotico, che cerca di scarnificare i sentimenti, di arrivare a razionalizzarli rendendoli emotivi. Qui poi c'è qualcosa anche di vagamente incestuoso, perché c'è un padre che racconta sostanzialmente ai figli, che lo recitano, il suo travaglio sentimentale autobiografico, e loro che impersonano il padre stesso. Sembra difficile da capire, lo è, come lo è il film. In mezzo c'è Anna Muglialis, in tutti i sensi, far vibrare i cuori e i sentimenti di queste persone. A me sembra troppo cerebrale, troppo intellettuale, troppo autoriale, e a un certo punto sono uscito da questo film. Però c'è anche quella grazia e quell'incredibile bravura nella regia, nel bianco e nero, e anche in questi attori che sono leziosi ma sono anche pieni di talento, che a volte ti fa rientrare nel film. Dipende dai vostri gusti, in questo caso, mai come in questo caso, è una scelta di campo. Io mi sento di bocciarlo perché non mi sembra comunque una delle migliori prove della famiglia Garrel in tutti i sensi, però insomma lascio a voi il giudizio. E allora lasciamo il giudizio sospeso sulla gelosia, andatelo a vedere al cinema e poi fateci sapere anche attraverso la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea, Radio 24, cercateci e cliccate mi piace per stare insieme con noi tutta la settimana con i nostri consigli e con le vostre visioni che cercheremo di commentare insieme. La Rosa Purpurea. La vita in quel mondo scorreva lo stesso. Scorreva come fa il fiume, incurante di ciò che lo intralcia. Albero o masso o diga che sia, se non lo travolge, lo aggira, se non lo sommerge, lo scavalca. E sempre comunque gli sopravvive. Forte della spinta perenne che ha alle spalle, attratto dalla meta incessante che ha di fronte. Scorreva dunque la vita. Scorreva intorno ai crucchi, sordi nella loro lingua da lupi e ottusi come dighe di carne ignare di correnti. Ma scorreva perfino più impetuosa la voglia di vivere, di provare la gioia, il sorriso, la carne, l'amore, di farsi madre, come si fece mia madre, di farsi padre, come per un istante si fece mio padre. Seconda parte della Rosa Purpurea, siamo con Elisabetta Sgarbi per parlare di racconti d'amore. Vi abbiamo detto in chiusura di primo blocco, parliamo di cinema ma parliamo anche di poesia davvero con questo film. Ciao Elisabetta, ben trovata alla Rosa Purpurea. Ciao. Allora, quattro storie d'amore con uno sfondo che però è anche un vero protagonista, cioè la zona del Ferrarese, il delta del Po, il grande fiume, le sue sabbie che lo circondano e che fanno d'argine a volte anche ai sentimenti, a volte anche alla guerra, che è la grande protagonista storica, diciamo, diffusa nel tuo film. Com'è nata l'idea di raccontare l'amore ai tempi della guerra? Nata da una committenza per un altro film, per un documentario che forse si vedrà prossimamente in programmazione da parte di Rai Cinema, ed è Quando i tedeschi non sapevano nuotare, dove ho intervistato nella zona del Polesine, al confine tra l'Emilia e il Veneto, i partigiani che erano stati i protagonisti della resistenza. Come possiamo ben immaginare, ne sono rimasti pochissimi. Il mio sguardo è andato in particolare verso le donne. Mi sono imbattuta in un episodio meraviglioso raccontato da Lidia Bellodi, che è la presa del comune di Bondeno da parte delle donne, un movimento di sole donne il 18 febbraio del 45. Queste donne forzarono la porta del municipio e buttarono dalla finestra i certificati anagrafici e ne fecero dei falò per impedire che i loro figli, i loro mariti venissero raggiunti. A quel punto, di fronte a una storia così viva, così forte, da parte di una partigiana dagli occhi azzurri che mi raccontava del suo amore per il marito e di come si fosse battuta con altre donne per salvare i suoi cari, ho pensato che prendendo in prestito la letteratura, che è un mondo in cui vivo, avrei potuto raccontare in quei luoghi che amo moltissimo perché ci sono vissuta. Quindi ho pensato di chiedere a scrittori di raccontarmi l'amore ai tempi della Resistenza, dove sullo sfondo la guerra c'è, ma ci sono quelle storie del quotidiano amoroso dei partigiani e di partigiane che sono stati i protagonisti di questa storia. E così è partito un racconto, che è un racconto poetico, che racconta due partigiani che ritornano come dei fantasmi, per esempio nel primo episodio che è scritto da Sergio Claudio Perroni, intitolato Tra due cieli, ritornano attraverso l'evocazione che Laura Morante, la figlia, fa di loro. E così ho raccontato la storia di due donne staffette che salvano un fuggiasco e lo fanno portando alla foce del Po, là dove il Po incontra il mare, è un punto bellissimo, e questo nel racconto di Fausta Garavini. E poi non poteva mancare Bassani e il suo amore per Nicole, il mio amore per Nicole e per Ferrara, Bassani che la racconta attraverso la bella interpretazione di Servillo, finché si arriva di nuovo all'oggi, si parte nell'oggi con Laura Morante figlia che ricorda i genitori e nell'oggi un pescatore esprime un suo palpito amoroso attraverso l'illusione di un amore per una donna bellissima che in realtà ha un marito che non la lascia sola e ma che è profondamente geloso. Ahimè, già prenotata, diciamo così. Certo, ahimè già prenotata. Ecco, una cosa Elisabetta che notavo è che il ruolo, tu hai parlato prima di fantasmi, comunque di ricordo, in molti sì. dei tuoi quattro poemi in cui si divide questo film, c'è questo ruolo, il ruolo di un ricordo velato quasi da qualcosa, come se qualcosa di quella guerra e di quanto quella guerra abbia fatto da argine ai sentimenti fosse rimasto addosso a te e ai protagonisti del tuo film, è così? Sì, io mi meraviglio di avere vissuto un passato che anagraficamente non posso aver vissuto, è come se attraverso i racconti anche di mio padre, ma anche delle persone che ho incontrato, attraverso dei racconti che forse ho udito senza averne una coscienza precisa, si fossero stratificate delle storie, perché mi ritrovo a raccontare qualche cosa che è come se fosse stato nella mia interiorità, nel mio vissuto, benché io non l'abbia potuto vivere. Sono dei fantasmi che si affacciano, che emergono, e anche attraverso la fotografia di Arce Maldonado e Elio Bisignani c'è questa volontà di mostrare dei corpi che sono immateriali e che però hanno una forza, che è una forza spirituale legata agli ideali, legati ai concetti che sono i più alti, i più nobili, di amore profondo, che li fa ritornare in scena. Sono come delle anime che diventano corpo visivo e che attraversano questo film, che è molto attraversato da una poesia che è aiutata anche da un paesaggio che ci sovrasta, certo. Dove un attore davvero straordinario è proprio il fiume. Assolutamente, io credo. Assolutamente, protagonista assoluto, è un luogo davvero magico. Elisabetta, il tempo corre veloce, io devo dire, le musiche di Franco Battiato straordinarie, e sicuramente da segnalare anche il fatto che tu sei riuscita a tenere questi quattro racconti anche in un tempo cinematografico che ha un ritmo pulsante, ha un ritmo sicuramente scandito all'interno del suo correre, e sei riuscita anche a stare in tempi cinematografici che secondo me, quando si affrontano le cose in questo modo, hanno quasi del miracoloso. Questo film è in programmazione al Cinema Mexico di Milano, uno dei cinema d'essai sicuramente meglio gestiti in Italia, che punta molto sulle produzioni di qualità, sposa un film, lo tiene per tanto tempo e porta la gente a vederlo. E allora, al Cinema Mexico di Milano, Racconti d'amore di Elisabetta Sgarbi. Grazie Elisabetta per essere stata con noi alla Rosa Purpurea. Grazie a voi, a presto. E allora, torniamo a giocare insieme con la Rosa Purpurea, perché c'è la seconda traccia del film da indovinare di oggi. Signor Woodruff, riteniamo che lei abbia ancora all'incirca 30 giorni di vita. Ho una notizia da darvi. Non c'è nulla al mondo che possa far fuori il sottoscritto in 30 giorni. E allora scriveteci di che film si tratta. Qui c'era qualcosa di più di una traccia, alla Rosa Purpurea @radio24.it, con il vostro nome, cognome e indirizzo. Provate a vincere una delle due copie in palio di questo film che sveleremo la prossima settimana. E allora adesso torniamo a collegarci con Boris Sollazzo, perché abbiamo ancora un film di cui parlare. È un film che arriva nelle sale italiane un po' alla chetichella, in questo momento programmato solo in quattro sale, però in quattro città importanti: c'è Milano, c'è Roma, c'è Torino. Stiamo parlando di Stories We Tell. Sentiamo la clip. Is this the tsunami she unleashed when she went? And all of us still flailing in her wake. How ironic it is that the final revelation and its aftermath have brought Sarah and I closer together. Allora Boris, Stories We Tell di Sarah Polley, genere, come si diceva una volta, documentario, ma noi diciamo sempre genere film in generale, e film anche fatto piuttosto bene. Sì, questo poi in particolare, il documentario è più che un testo, è un pretesto proprio, è qualcosa che fa da spartito, che porta ovunque, porta al thriller, porta all'indagine psicologica, porta al giallo, perché sotto questa ricerca autobiografica di Sarah Polley, che sostanzialmente vuole raccontare la sua famiglia, una famiglia di narratori, da qui il titolo Stories We Tell, attraverso questo incredibile insieme, assembramento vero, di persone diverse, complesse, complicate, capitanate da un padre molto ingombrante, molto difficile, con cui lei ha un rapporto molto particolare, a cui lei dà un ruolo che è quello del narratore scoperto. Stanno in uno studio, per la maggior parte del tempo stanno in uno studio di doppiaggio, di registrazione, e consente questo di abbattere quella parete che c'è di solito tra chi narra e chi è davanti alla macchina da presa. Film straordinario. Quando vidi per la prima volta Sarah Polley davanti a una macchina da presa, dissi che era una delle più straordinarie attrici che avevamo visto negli ultimi anni. Da quando la vedo per ben tre volte dietro la macchina da presa, mi sembra una delle migliori registe che abbia mai visto, e arrivate fino alla fine, perché il finale vi stupirà come quello dei soliti sospetti. E allora questo è il film con cui chiudiamo i nostri consigli, Stories We Tell. Voglio ricordare anche che però nelle sale cinematografiche italiane c'è Gebo e l'ombra, l'ultima in ordine cronologico fatica dell'ultracentenario regista Manuel de Oliveira, grande maestro del cinema contemporaneo, con Claudia Cardinale. Insomma, per chi ama questa attrice, questo regista, questo tipo di cinema, chiaramente un consiglio è anche quello di andare a dare un'occhiata a questo film. A questo punto un saluto a Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora eccoci alla parte dedicata al cinema da vedere in casa, in collegamento con Giulio San Giorgio dalla redazione di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, la settimana scorsa avevamo giocato con questo film. Ebbene, eccola arrivata, era ora. Oh, mia cara ragazza, lei neanche immagina quanto io sia contento finalmente di conoscerla. Sono un poco di zucchero, la pillola va giù, pillola. E allora, la clip era di Saving Mr. Banks, che era il nostro game della scorsa settimana e che hanno indovinato e vinto Maria Giovanna Romano di Sant'Agnello, provincia di Napoli, e Mena Giordano di Monticelli Brusati, provincia di Brescia. La canzone invece che avete sentito, storica, una canzone del musical Mary Poppins, perché? Perché, Giulio, oltre a Saving Mr. Banks, di cui adesso parliamo, la Disney contestualmente ha fatto riuscire in Blu-ray anche il capolavoro Mary Poppins. Sì, esattamente, per festeggiare i 50 anni di Mary Poppins Disney ripubblica il film classico, il film dedicato alla sua decisamente tormentata genesi, Saving Mr. Banks. Il Blu-ray di Saving Mr. Banks, vinto dai nostri ascoltatori, è d'altissima resa, soprattutto per quanto riguarda il video, e offre extra come un viaggio negli studios della Disney e scene tagliate, mentre il Blu-ray di Mary Poppins è decisamente un ottimo prodotto, 2 ore di documentari di extra, un confronto tra Jason Schwartzman, che in Saving Mr. Banks interpreta uno dei due compositori, e il vero compositore del film Mary Poppins, Richard Sherman, è un cortometraggio in cui Julie Andrews e Mary Poppins è nei panni di una contemporanea. E allora, andiamo invece alla segnalazione pescata dai palinsesti televisivi della prossima settimana, Giulio, perché sulla 7, lunedì 30 giugno alle 21.10, in prima serata, c'è un classico come Anatomia di un omicidio. Sì, Anatomia di un omicidio del grandissimo Otto Preminger con James Stewart e Ben Gazzara. 2 ore e 40 di film processuale su un uomo accusato di avere ucciso il violentatore della moglie, che scorrono in un fiato per la maestria stupefacente di un film che è soprattutto un paradosso. Alla fine del processo rimane soltanto l'ambiguità di ogni volto e di ogni comportamento umano, e la verità sembra lontanissima. E allora guardatevelo questo Anatomia di un omicidio sulla 7, lunedì 30 giugno alle 21.10. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Un'informazione di servizio per tutti: per tutta l'estate, tutto luglio, tutto agosto, fino all'inizio di settembre, La Rosa Purpurea raddoppia. Torneremo al nostro formato di un'ora, appunto, per tutta l'estate, cominciando il sabato alle 15.30. Quindi vi aspetto settimana prossima alle 15.30 alla Rosa Purpurea per parlare ancora di più di cinema anche durante questa estate. Grazie, ci risentiamo. Un saluto da Franco D'Assisi.